24, i gialli della storia. A 93 anni è morto Shimon Peres, tra i protagonisti della storia e della politica mondiale. Peres è uno dei padri fondatori di Israele. Ebreo di origine polacca, a 11 anni emigra in Palestina. Da giovanissimo è iniziato ai misteri della politica dal padre fondatore della patria Ben Gurion. L'ombra del grande vecchio gli spalanca le porte del potere, ma per anni lo condanna alla carriera di eterno secondo. Poi, leader del partito liberista, diventa infine presidente di Israele, uomo di mediazione e di pace. Compie un instancabile lavoro nella soluzione politica del conflitto israelo-palestinese. Per questo, insieme a Rabin Arafat, vince il premio Nobel per la pace dopo gli accordi di Oslo del 93. Per i gialli della storia, in un faccia a faccia del 1986, l'allora ministro degli esteri Shimon Peres presenta la sua politica, una politica fatta di compromessi e di negoziati, ma soprattutto di una guerra senza confini al terrorismo internazionale, alla violenza e all'odio, una testimonianza significativa del suo pensiero. Signor Peres, a che punto è, secondo lei, oggi la lotta contro il terrorismo internazionale? A metà strada. È diffusa la convinzione che sia giunto il momento di combattere il terrorismo. Non di meno, se la volontà e le intenzioni non mancano, mancano ancora le conclusioni. Si parla molto, ma a mio giudizio non sono state prese ancora le misure necessarie. Ecco, ma quanto del terrorismo internazionale di oggi si deve all'incancrenirsi della questione palestinese, secondo lei? Quanta parte? Dopotutto c'è il terrorismo in Inghilterra, ad opera degli irlandesi. C'è il terrorismo a Berlino, c'è il terrorismo a Roma, c'è il terrorismo in Giappone, c'è il terrorismo in Corea. Il problema è stabilire se il terrorismo può diventare uno strumento efficace per raggiungere obiettivi politici o militari. Nella stessa misura in cui sono convinto che la guerra non deve diventare uno strumento diplomatico o politico, non dobbiamo consentire che lo diventi il terrorismo. Qualora lo diventasse, tutti ricorrebbero al terrorismo come lo strumento più idoneo per raggiungere gli obiettivi che si propongono o i loro sogni. Signor Peres, senta, nei suoi 2 anni di guida del governo di unità nazionale, lei ha puntato molto sul dialogo con Re Hussein di Giordania per risolvere la questione palestinese. Ecco, ma con risultati incerti. Perché? Non così incerti. Penso però che per raggiungere la pace ci voglia tempo. Si può scatenare una guerra dalla sera alla mattina. C'è la stessa differenza che corre tra abbattere gli alberi di una foresta, cosa che si può fare dalla sera alla mattina, e far crescere la foresta. Un lavoro che richiede moltissimo tempo. La guerra è come abbattere gli alberi, la pace è come far crescere la foresta. A mio giudizio molte cose sono cambiate. C'è una guerra in meno in Libano, c'è un accordo in più con l'Egitto, sono intervenuti grossi cambiamenti in Cisgiordania ed è notevolmente mutato il clima generale in Medio Oriente. Questi sono risultati notevoli. Signor Peres, ma cosa dovrebbe fare l'OLP per diventare un interlocutore plausibile per Israele? L'OLP deve smettere di essere l'OLP. Hanno cercato di realizzare un'associazione con la Giordania e hanno fallito. Non va dimenticato che è proprio la Giordania, prima ancora di Israele, ad opporsi all'attuale leadership dell'OLP, dopo aver tentato in tutti i modi di arrivare a un accordo. Vi si oppone anche la Siria. Apparentemente l'OLP non è in grado di prendere una decisione e per l'OLP è più importante tenere unita l'organizzazione che fare una scelta politica. E questo è il problema. Ma se l'OLP riconoscesse il diritto all'esistenza dello Stato di Israele, simultaneamente Israele sarebbe disposta a riconoscere la legittimità dell'OLP o no? Questo problema è vecchio di 15 anni e ogni volta che ci viene posta questa domanda forniamo la nostra risposta invano. A mio giudizio la domanda e il problema creano un'illusione. L'OLP deve prendere una decisione pregiudiziale, quella di accettare realmente la via del negoziato. Deve poi cessare ogni attività terroristica, deve riconoscere le risoluzioni 242 e 338, deve portare a compimento l'accordo con la Giordania. Nulla di tutto questo si è mai verificato, sebbene Re Hussein abbia sinceramente tentato di raggiungere un accordo con l'OLP. Senta, ma lei cosa prova quando, come in questi giorni e come tante volte in passato, si sente di massacri nei campi profughi di Shatila, in Libano. Per quanto mi riguarda, ogni uccisione, ogni assassinio suscita in me rammarico e dolore come essere umano. Si tratti di un arabo che uccide un altro arabo o di un arabo che uccide un ebreo o di un ebreo che uccide un arabo. Il Signore non ci ha mai autorizzato a ucciderci l'uno con l'altro. E anche quando siamo presi dalla rabbia e dal risentimento, è sempre meglio negoziare e trovare una soluzione. La mia posizione di fondo è questa. Non provo alcun piacere nel leggere che degli arabi armati hanno ucciso dei bambini arabi inermi o delle donne arabe inermi. Per me è una tragedia. Signor Peres, ma il profugo palestinese non somiglia un po' anche all'ebreo che per tanti secoli ha vagato per il mondo prima di trovare la sua terra? Non proprio. Cerchiamo di essere giusti. Gli arabi hanno 22 stati, gli ebrei non ne avevano nemmeno uno. Gli arabi hanno 10 milioni di chilometri quadrati di territorio. L'intera superficie di Israele è di 24.000 chilometri quadrati. Com'è possibile fare un paragone reale? Inoltre abbiamo accolto quasi 1 milione di profughi ebrei provenienti da paesi arabi. Con questo non voglio dire che non dobbiamo ricercare una soluzione per i profughi, ma qualunque paragone è ingiusto sotto il profilo storico e sbagliato da un punto di vista filosofico. Senta, ma per lei oggi allora che cos'è un palestinese? Chi è? Ovviamente è un essere umano e prima di essere ebrei o palestinesi si è esseri umani. Io vorrei che tutti potessero godere della pienezza dei diritti e dell'equità. Sostanzialmente i palestinesi non sono un popolo, ma un luogo geografico. Ma se un popolo si dichiara tale, allora è un popolo. Non spetta a me stabilire chi ha il diritto di dichiararsi popolo. Se un popolo decide di diventare un popolo, a me sta bene. Senta, torniamo un momento ad Arafat. Anche se è indebolito, che piaccia o no a Israele, è ancora il leader dell'OLP. Ecco, perché non si può arrivare a una trattativa tra Israele e Arafat? Perché non si può sparare e parlare al tempo stesso. Perché Arafat e i suoi predecessori hanno fatto un cattivo uso di tutte le occasioni storiche per arrivare alla pace. Possiamo risalire al 1948, quando le Nazioni Unite proposero la formazione di uno Stato palestinese nella maggior parte della regione occidentale di Israele. Loro rifiutarono. Noi ci dichiariamo d'accordo. Fino al 67 non siamo mai penetrati in Cisgiordania. Lì poteva sorgere uno Stato palestinese o uno Stato giordano-palestinese, ma non ne fecero nulla. Poi il re li ospitò fino al settembre nero del 1971. Anche in quella circostanza cercarono di rovesciare il re. Non mi pare il caso di ripercorrere tutta la storia. Prendiamo soltanto l'ultimo anno. Il re ha negoziato con i palestinesi giorno e notte. Avrebbero potuto raggiungere un accordo. Perché devo essere io a dare una risposta? Come ho già detto, il problema di Arafat è quello di mantenere l'unità della sua organizzazione e non di adottare le decisioni migliori per il suo popolo. A mio giudizio si tratta di un grosso errore storico. Non si arriverà a niente col terrore, con la violenza. Non si farà altro che suscitare in tutti rabbia e risentimento. Se vuole una decisione politica, deve imboccare la strada della politica. Signor Peres, ma lei Arafat lo conosce personalmente? Eh? No. E come leader politico che giudizio le dà complessivamente? Nel corso di interviste come questa si ha la tendenza a fornire analisi psicologiche pur disponendo di scarse cognizioni psicologiche. A mio giudizio un leader va giudicato sulla base di quanto ha fatto. Io non credo che vi siano leader moderati o leader estremisti. Vi sono politiche moderate e politiche estremiste. Se una persona moderata adotta una politica estremista, che importanza o significato può avere il fatto di essere una persona moderata? Se dovessi giudicare Arafat semplicemente sulla base di quanto ha fatto, della sua politica, della storia, e se fossi un palestinese, sarei profondamente deluso. Ma quindi allora lei fra Abu Nidal, per esempio, e Arafat non vede nessuna differenza? C'è una differenza, ma non da un punto di vista politico. Certo che c'è una differenza tra chi uccide una persona e chi ne uccide due. Ma uccidere è un errore. E c'è una frontiera tra negoziare e uccidere, tra il terrore e la diplomazia. Se si varca questa frontiera, c'è ovviamente una differenza tra chi la varca di poco e tra chi la varca più marcatamente. Ma la differenza non è importante. Comunque è certo che oggi i palestinesi dei territori occupati, della Giudea, della Samaria, oltre che Gaza e la parte orientale di Gerusalemme, si riconoscono ancora in Arafat. Ecco, allora come si può arrivare a un'intesa politica con loro senza passare per Arafat? Come fa a sapere che si identificano in Arafat? Se qualcuno ti minaccia con la violenza e il terrore, non è possibile conoscere la sua autentica e libera scelta. La mia impressione è che molte persone che vivono in Cisgiordania e a Gaza sono spaventate, in quanto gli arabi, i palestinesi, sono le vere vittime del terrore. Dal livello di sindaco di una città, al livello di un capo di uno Stato, la gente è spaventata, la gente ha paura. Se non Arafat, sarà Abu Nidal o qualcun altro a minacciare la loro vita. In presenza del terrore non esiste libera scelta, non esiste autodeterminazione, esiste la paura. Un paese dittatoriale può garantire l'autodeterminazione o la libera scelta? Se c'è la libertà, c'è libera scelta. Ma in presenza della paura, le scelte sono determinate dalla paura. Signor Peres, ma oggi quali libertà assicura ai palestinesi Israele nei territori occupati? Tutte le libertà, tranne quella di ucciderci. Oggi in Cisgiordania tutti i sindaci sono arabi. La vita economica è in mano agli arabi. L'amministrazione è in larga misura in mano agli arabi. Noi non vogliamo amministrare la vita degli arabi e io come persona non vorrei dominare la loro vita. Gli ebrei, nel corso dei loro 4.000 o 5.000 anni di storia, non hanno mai dominato gli arabi. Ritengo sia moralmente giusto e politicamente saggio. Perché dovremmo all'improvviso diventare una nazione dominatrice? Non vogliamo dominare. Ma nei territori occupati continua a esserci un'amministrazione militare o no? Sì, c'è un'amministrazione militare perché siamo stati attaccati da un esercito. Abbiamo difeso la nostra vita e da allora non abbiamo trovato una soluzione politica. Questa è quindi la situazione ufficiale. Ma c'è un altro problema. Vediamo di affrontarlo e di non semplificare troppo le cose. Quando due popoli convivono nella stessa terra, è molto difficile arrivare a una soluzione. Ma anche se si vuole una soluzione, le alternative sono due. Dividere la terra o dividere il governo. Condividere il governo. Forse condividere il governo è una soluzione migliore rispetto a quella di dividere la terra, in quanto gli insediamenti sono ormai tali da rendere praticamente impossibile una divisione. Ma è vero, come si dice, che è previsto proprio in questi territori l'insediamento di altri 100.000 coloni ebrei nei prossimi anni? Lei non sta parlando con un profeta e non prenderei troppo sul serio le profezie di altri. Le 100.000 persone di cui ho sentito parlare negli ultimi 17 anni non si sono tradotte in realtà e spero che troveremo una soluzione in quanto siamo disponibili a modificare la politica degli insediamenti in Cisgiordania. Senta, comunque proprio nei territori occupati Israele ha visto nascere anche un pericoloso estremismo ebraico. Parlo del rabbino Khan o peggio ancora di commandos ebrei che hanno compiuto degli attentati contro la popolazione ebrea. Ecco, come lo spiega questo? Tanto per cominciare, me ne vergogno. Ogni paese ha il suo Kahan, ma se anche una nazione non può evitare il fenomeno dei Kahan, resta da vedere se esiste una maggioranza sufficientemente forte da condannare e bloccare il fenomeno. E io sono convinto che in Israele la maggioranza della popolazione condanna il genere di proposte avanzate da Kahan. Ma quindi lei ammette l'esistenza anche di un terrorismo ebraico? Non so cos'è il terrorismo ebraico. Non credo che ebraismo e terrorismo siano compatibili. Ci sono però terroristi che appartengono al popolo ebraico, i quali vengono portati dinanzi ai tribunali, ai quali spetta il compito di comminare loro una pena. Ecco, ma lei quindi non è favorevole alla creazione di uno Stato palestinese? No. No, ritengo sarebbe una creazione artificiale. Ritengo che sarebbe fonte di ulteriori conflitti tra la Giordania e i palestinesi. La soluzione migliore va individuata all'interno di un accordo tra giordani e palestinesi. Quindi non sarebbe disposto a cedere Giudea, Samaria e Gaza ai palestinesi pur di avere la pace? Non lo so, perché bisogna tener conto delle esigenze della sicurezza. Se devo parlare a nome del governo, allora devo dire che, a nostro giudizio, il passo successivo dovrebbe essere quello di una sorta di autonomia o di soluzione confederata. Se invece devo parlare a nome del mio partito, allora le dirò che il mio partito è disposto anche ad accettare compromessi territoriali. In presenza di un conflitto, se si vuole risolverlo per via diplomatica e politica, bisogna essere aperti al compromesso. Il compromesso potrebbe essere di natura funzionale o di natura territoriale. Personalmente io non credo sia possibile arrivare a una soluzione in una volta sola. Forse ci vorranno due o tre fasi. E sono convinto che la prima fase migliore possa essere rappresentata da una soluzione funzionale, vale a dire una sorta di condivisione del governo. Signor Peres, parliamo ancora di terrorismo. Al centro dei sospetti sulle connivenze oggi c'è la Siria. Ecco, Israele lo ha sempre detto. In base a quali prove? Sulla base degli attentati e degli arresti in Inghilterra, in Germania e in altri paesi. I siriani sono stati colti in flagrante e i giudici si sono espressi al riguardo. Ma secondo lei oggi il presidente Assad a che gioco gioca? Giocava a terrorizzare molti paesi nella convinzione che nessuno lo avrebbe scoperto. Oggi si trova in una situazione alquanto complessa, in quanto è stato provato che è un ispiratore del terrorismo all'estero. E questo ha portato ritorsioni contro di lui, per cui si trova in difficoltà. Senta, ma c'è un leader arabo che lei rispetta e da cui ritiene di dover imparare qualcosa? Io cerco di imparare qualcosa da tutti i leader. E nel mondo arabo, tra i leader che ho avuto il piacere di incontrare o di cui ho avuto modo di leggere, rispetto molto Mubarak. Senza dubbio nutrivo un profondo rispetto per Sadat. Ho provato ammirazione per le capacità intellettuali di Re Hassan II del Marocco e ritengo che Hussein sia un leader di grande esperienza. Senta, lei aveva 24 anni quando chiese un passaggio in automobile a Ben Gurion, il padre di Israele. Poi cosa è successo? È successo un po' prima di quanto lei ha detto. Ma poi ebbi la grossa opportunità e il grande piacere di lavorare con il signor Ben Gurion per 18 anni, giorno e notte. Consideravo quest'uomo un genio. Ho avuto la possibilità di imparare da lui moltissime cose. Ammiravo la sua onestà, il suo coraggio, la sua lungimiranza. E da lui ho appreso che la saggezza, al massimo grado, rispetta il richiamo morale. Signor Peres, Ben Gurion un giorno ha detto: per vivere in Israele bisogna credere ai miracoli. Ecco, a che miracolo bisogna credere oggi? È molto interessante, a mio parere, che alla fine abbiamo toccato il punto che rappresentava la speranza di Ben Gurion. Vale a dire che la forza di un paese, di una nazione e di ogni persona non deriva dalle considerazioni materiali, cioè a dire la grandezza del territorio, la ricchezza delle risorse naturali, le piogge, le montagne, le pianure, bensì dalla mente e dallo spirito della gente. Ciò che rende una nazione o una persona forti sono le motivazioni, l'istruzione, lo spirito dell'essere umano. Ci troviamo in un'epoca in cui la storia sta compiendo la transizione dalla quantità alla qualità. Questa è una competizione alla quale dobbiamo prendere parte, in quanto ci siamo preparati per secoli e secoli, affinando il nostro ingegno e tenendo alto il nostro spirito. Questo a dispetto di tutte le difficoltà e di tutte le tragedie che il nostro popolo ha dovuto affrontare nella sua marcia attraverso la storia. Signor Peres, senta, e da Golda Meir e Moshe Dayan che cosa ha imparato? Di che cosa si ricorda umanamente di più di questi due personaggi? Moshe Dayan era un mio amico fin da quando eravamo molto giovani. Siamo stati ottimi amici per circa 30-35 anni. Eravamo molto amici, molto vicini. Dayan era una persona quanto mai insolita. estremamente originale, molto saggia. Era un uomo con cui si potevano trascorrere le ore più interessanti della tua vita, grazie alla sua saggezza, alla sua originalità, al suo tentativo di vivere la sua vita alla luce delle sue convinzioni, senza copiare nessuno e senza avere debiti. Era un uomo che ogni mattina decideva di nascere di nuovo. Giorno nuovo, persona nuova, con tutti i suoi talenti e tutte le sue capacità. Anche la signora Mayer era una donna estremamente coraggiosa. Il momento in cui l'ho rispettata più profondamente è stato durante la guerra, quando si era soliti dire che era il solo uomo nel Consiglio dei Ministri. Era una donna capace di controllarsi e di controllare quanti le stavano intorno. Aveva una capacità che raramente ho riscontrato, quella di parlarti direttamente al cuore, si trattasse di un colloquio privato in una stanza o di un grosso comizio in piazza o di un discorso alla televisione o alla radio. Questa signora aveva una capacità quanto mai femminile e insolita. Arrivare dritta al tuo cuore. Quindi ognuno di loro aveva le sue virtù. Senta, lei è stato uno dei grandi artefici della creazione di uno dei miti di Israele, l'esercito. Ecco, quanto conta oggi Israele sul suo esercito e quanto sulla sua politica? Per mantenere una tensione in direzione della pace, una politica di pace, è necessario un forte esercito, in quanto non siamo degli ingenui. Ma io sono profondamente convinto che, proprio per il fatto di disporre di un eccellente esercito, di disporre di un forte esercito, possiamo marciare senza nervosismi verso la pace. La forza di un esercito può essere usata per vincere una guerra, ma può essere anche usata per vincere la pace. E tra vincere una guerra e vincere la pace, mi crede, io preferisco vincere la pace.